fumo piante coltivate indoor. Rap di strada, rap disagiato, quando fumo so non sconclusionato. E non mi chiede perché voglio sta fatto, vedo troppo schifo in giro. Voglio sta distratto dal tonice al semaforo che provano lo scatto. Te vengono addosso, preparati all'impatto. Che male mi ha fatto sentire più di una moto addosso. Sentirmi dire guarda cosa hai fatto alla mia moto. Sta zitto brutta merda e leccami lo scroto.